Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini incrociati si parla di prime donne a teatro e nella vita, di amori, drammi e melodrammi, perché quando la scena si sostituisce alla realtà, cala inevitabilmente il sipario. È il 19 maggio del 1962. Quella che sentite è Maria Callas. Maria Callas, che dà il suo saluto al presidente Kennedy in occasione del suo compleanno. Non è certamente per la sua esibizione che si ricorda quell'evento, almeno non solo, ma piuttosto per l'Happy Birthday, Mr. President di Marilyn Monroe. Eppure, proprio quella sera, la soprano più famosa al mondo incrocia per un breve attimo il suo destino con quello della bionda attrice. Con la bionda più famosa di Hollywood si può dire che in quell'esatto momento condivida solo l'audience. Lei è una moglie ufficiale. La Monroe è un amante. Chissà se i ruoli un giorno si scambieranno. Tutto è cominciato a Parigi. È il 1958, siamo all'Opéra de Paris. C'è il tutto esaurito perché per la prima volta la capitale francese ospita la Callas. L'evento è trasmesso in diretta nazionale. È l'ultima apparizione in pubblico del presidente René Coty, l'ultimo presidente della Quarta Repubblica. La Francia vuole festeggiare la fine di un'era. Quale occasione migliore per far venire la Callas? Alla fine dell'esibizione nel foyer del teatro si dà una cena in suo onore. Ci sono i suoi amici, Charlie Chaplin, Jean Cocteau e un affascinante armatore greco, Aristotele Onassis. Aristotele Onassis. 3 mesi dopo, Maria è a Venezia. Lo incontra di nuovo a casa della contessa Wally Toscanini. Onassis la invita per una crociera sul suo yacht, ma Maria rifiuta. Per capire quanto l'amore conti nella vita della Callas, è necessario fare un passo indietro. Non sono stata io a decidere cosa fare della mia vita. Almeno agli inizi fu la mia famiglia, soprattutto mia madre che dirigeva la casa. Io dovevo solo obbedire, ma la cosa non mi pesava perché i giochi dei bambini non mi attiravano. Il programma era che sarei dovuta diventare una cantante, un artista in ogni caso. I genitori spesso dicono: io mi sacrifico per te, ma tu farai tutto quello che io non ho potuto fare. Evangelia, la madre di Maria Callas, avrebbe voluto fare l'attrice. Riversa quindi tutte le sue aspettative sulla figlia, con la quale ha un rapporto difficile. Dopo aver perso l'unico figlio maschio all'età di 2 anni per meningite, Evangelia è inconsolabile. E quando scopre di essere di nuovo incinta, desidera con tutte le sue forze di avere un altro maschio. Il 2 dicembre del 1923, al Flower Hospital della Quinta Strada, New York, dove i Callas si sono appena trasferiti dalla lontana Grecia, nasce invece Maria. La mamma non vuole vederla, per molti giorni si rifiuta di prenderla in braccio. Quell'amore negato sin dai primi giorni è la ferita che la porterà a cercare continuamente un amore irraggiungibile, fatto di rifiuti e di seconde scelte. Maria si sente brutta. Non si sente amata. Ha una sorella più grande, Jackie, la preferita da Evangelia perché più bella e più socievole. L'unica evasione per Maria è cantare nella solitudine della sua camera. Ed ecco che la madre comincia a guardarla con occhi diversi. Forse adesso, grazie alla sua voce, si sente degna di essere amata. La voce è il suo potere. Ecco il suo posto nel mondo. È il periodo dei concorsi radiofonici, dei bambini prodigio. Maria partecipa accompagnata dalla madre a uno di questi e vince il secondo premio. Questa, la prima registrazione della sua voce, sotto il nome di Nina Foresti, è il 1935. Maria ha 13 anni quando Evangelia decide di tornare in Grecia, lasciando il padre a New York. La mancanza della figura paterna sarà determinante nella scelta degli uomini nella vita di Maria. Atene per lei è nuova. Lei è l'americana, non parla il greco, non ha una vera lingua madre. Non ha amici. si rinchiude sempre più nel canto. La sua voce le tiene compagnia, ma la deve perfezionare. Deve diventare la più brava, la migliore. La disciplina è alla base della sua arte. Lavora al piano, è instancabile, divora gli spartiti. Diventerà la più grande cantante del mondo. Se questo è il modo per farsi amare, allora ce la farà. Perfetta. Perfetta. Docile. Docile, intelligente. Lavoratrice. Una cosa formidabile. Non dovevo mai ripetere una frase due volte. Lei diceva capito. Il giorno dopo, tutto a posto. Magnifico. Tutto così. E tu come sa? Chi parla è Elvira de Hidalgo, una celebre soprano spagnola che ha cantato con Caruso, il tenore napoletano dal timbro inconfondibile. È Elvira de Hidalgo a procurare a Maria una borsa di studio per il Conservatorio di Atene e a farle da maestra. Maria ha 16 anni, è la studentessa più giovane, ma anche la più diligente. È una ragazzotta in sovrappeso, con problemi di bulimia. Il suo corpo continua a non piacerle, ma quello che la sua voce riesce a trasmettere, sì. Quindi cerca il massimo rigore in quello che fa, come ricorda Elvira. La première e il parte la dernière. Era la prima ad arrivare e l'ultima ad andarsene. Era sorprendente. Come faceva a resistere per 5 ore? Ascoltava tutti gli allievi, le colorature, i tenori, tutto. Si era messa in testa di fare le note alte. Mi diceva, riuscirò a fare i picchiettati? E io dissi, se continui così, sì, tu puoi fare tutto. Tutto. Tu puoi fare tu. Tu. È il 1940 e la Grecia fino ad ora si è sottratta alla guerra. Maria passa un periodo sereno coccolata dai docenti del conservatorio, con Elvira che le insegna a diventare sempre più brava. Aprile 1941. Tedeschi e italiani occupano Atene. Per 3 anni la paura, il coprifuoco, la fame. L'opera di Atene però prende vita e Maria viene scelta per una Tosca. Una voce così giovane a solo 18 anni per una parte così importante. Nel frattempo la madre organizza cene con ufficiali dell'esercito, dove Maria si esibisce. A ottobre del 1944 Atene vive l'euforia della liberazione, ma Maria ha cantato per gli occupanti. È messa al bando dall'opera di Atene, perde la borsa di studio, la sua carriera è compromessa. Maria riparte per l'America contro il volere della madre, con la quale i rapporti si incrinano, ma lei non sente ragioni. Là c'è ancora il padre, di cui ha sentito terribilmente la mancanza in questi anni. Ha solo i 22 anni, non ha soldi, ma ha 2 valigie piene di spartiti. Tutto quello di cui ha bisogno. Audizione dopo audizione, però, si accorge che la star dell'opera di Atene a New York è solo una provinciale. Prova a farsi scritturare per il Metropolitan, ma non ci riesce. Canta al Greenwich Village, in un ristorante italiano, per guadagnarsi da vivere. Qui incontra Giovanni Zenatello, che è alla ricerca di una Gioconda per l'Arena di Verona. Travolto dalla sua bravura, la scrittura subito, e Maria parte per l'Italia con lui. Non è l'America, ma l'Italia, l'inizio della sua fortuna. L'America non è certamente l'inizio, eppure sarà causa della sua fine. Ma questo lei ancora non lo sa. La vita e l'arte stanno per fondersi in maniera pericolosa per lei. La passione per la cosa che lei aveva intrapreso, il sogno della ragazza giovane che si dice devo avere la più bella voce del mondo, quell'artista, è l'artista che mi piace, perché finalmente tutto nutre quell'artista, anche i malori della donna, non l'ha sprecato la sua vita, l'ha offerta. Chi parla è Fanny Ardant, che ha interpretato la soprano in Callas Forever, il film omaggio alla divina dell'amico Zeffirelli. È inevitabile, se si parla di Maria, si parla di dolore, di sofferenza, sentimenti che l'hanno accompagnata dai suoi primi giorni di vita e che hanno trasformato la donna nell'artista. Dopo quell'esordio all'arena, dove sempre più è la verità drammatica che le interessa oltre alla voce, la Callas incontra un industriale veronese di 52 anni, Giovan Battista Meneghini, appassionato di opera che vuole guidare la cantante, ma è affascinato anche dalla donna. Con i suoi regali le fa capire che c'è dell'interesse. Meneghini diventa prima il suo agente e poi il suo amante. Si sposano nella piccola cappella dei Filippini a Verona nel 1949. Lui non è il principe azzurro, ma è l'uomo che può aiutarla a diventare la Callas. L'amorso de Norma. Ho sentito una frase di Norma, poi un altro pezzetto. Ho sentito che mi veniva, com'è che si dice, la pelle d'oca. La pelle d'oca. Chi parla è Francesco Siciliani, direttore del Maggio Musicale Fiorentino, che dà inizio alla sua carriera scritturandola per la Norma a Firenze. È la prima tappa dell'inizio della sua carriera in Italia. La sua voce sbalordisce il bel paese. Maria ora è la Callas. Sceglie il suo repertorio, il bel canto, Bellini, Donizetti, Verdi. Il successo le apre le porte della Scala. A 28 anni apre la stagione coi Vespri Siciliani. Sono fatalista, sono greca per quello che sono fatalista, ma penso che se il mio destino avesse voluto, avrei cantato alla Scala. Quindi sono cose che uno forse non osa neanche credere. La Scala, prima di tutto, è il teatro che ti offre il miglior spettacolo possibile. Posso dire, malgrado che ho viaggiato tutto il mondo, può anche non piacere a tanta gente all'estero quello che dirò, perché mi hanno offerto tutte le possibilità, fanno dei magnifici spettacoli fuori, ma la Scala come tradizione, come qualità d'orchestra, come coro, come messa in scena, come serietà del lavoro, di lavoro, offre il meglio che c'è. E per me il tempio dell'arte. La Scala è il tempio dell'arte. Maria l'ha sperimentato. C'è tradizione, è vero, ma anche molta innovazione. A Milano, Maria incontra Luchino Visconti e tra i due nasce un amore professionale molto intenso. Maria ha un carattere straordinario. Nella vita non so, magari no, ma come artista credo che tra le attrici che ho avuto sia la più disciplinata, la più dedita al lavoro, la più scrupolosa. Veramente straordinaria. Il carattere dell'artista è già formato, così come quello della donna. Le eroine che interpreta sono specchio in un certo senso della sua personalità. Per esempio Norma, la sacerdotessa celtica innamorata di un romano dalla quale ha due figli, una donna combattuta che sceglie il sacrificio. Maria la incarnerà circa 90 volte. Casta Diva, cantata al compleanno di Kennedy, è estratto proprio da quest'opera. Io amo Norma anche come personaggio, non dico che mi somigli, o forse sì. Per la sua forza di carattere, la sua ferocia. Ma è un'illusione. Lei incarna il sacrificio. Con Visconti, la Callas diventa la suprema traviata. Violetta, che rinuncia al suo amore e persino alla vita per conquistare la nobiltà, è la sua altra eroina. Ci sono due ruoli che amo tanto, la traviata e Norma. Le trovo speculari in un certo senso, anche se in modo diverso, essendo una delle due una donna di mondo. Si sacrificano entrambe per amore. Il tema del sacrificio e dell'amore sono cari alla Divina, anticipando in un certo senso quella che sarà la sua vita. Tutti la amano come artista, non tutti come donna. Alla fine degli anni 50 comincia la sua trasformazione anche fisica. Vuole essere una dea anche nella vita. Sua complice è una sarta milanese, la Bichi, nipote di Puccini. Nel 1957 Maria è proclamata la donna più elegante del mondo. New York adesso la vuole. Debutta al Metropolitan e ottiene 16 chiamate. Riceve in camerino un biglietto laconico e scaramantico della Dietrich, insieme a un mazzo di fiori, Merde, merde, merde, Marlene. La diva adesso è un'adolescente inquieta. La vita con Meneghini non le basta più. 10 anni prima era una bambina che aveva incontrato un padre. Ora però lui non risponde più alle aspettative della donna. Anche l'artista ne risente. Erano tutte le premesse per uno spettacolo d'eccezione alla serata inaugurale del Romano Teatro dell'Opera. E qualcosa di eccezionale è realmente avvenuto, ma non nel senso auspicabile. Il Presidente della Repubblica era intervenuto a dare particolare prestigio alla serata. Si sarebbe eseguita la norma e sublime soprano sarebbe stata Maria Meneghini Callas. Ma perché il giornalista usa il condizionale? Perché quella sera Maria è afona. Alla fine del primo atto abbandona. Dopo un'ora l'annuncio. Per causa di forza maggiore la rappresentazione è sospesa. Per quanto cerchi di dare spiegazioni e chieda perdono, viene definita capricciosa, egoista, frivola. Viene persino presentata una mozione parlamentare in cui si chiede di ritirare la sovvenzione a quei teatri che fanno cantare la Callas. Lei è stanca di combattere con il pubblico. L'avvento dei jet, inoltre, ha imposto un ritmo nuovo alle sue esibizioni in tutto il mondo. Altra grande nemica, la televisione. L'elettrodomestico entra nelle case per diffondere la grande arte, ma dappertutto l'integrità artistica deve scendere a patto con la programmazione. Maria non ne può più. Non è umano dover affrontare un pubblico che ha fatto la fila per 3 giorni, soprattutto se comunque ti senti sola. Sono venuto per la Callas. Ora che ha deciso di tornare qui, perderla sarebbe un delitto. È la più grande cantante del secolo. Nessuna star dell'opera possiede il suo fascino. È una stella in tutti i sensi. Un'attrice grandissima, una cantante immensa, una personalità fantastica. La sua fama alla fine degli anni 50 è alle stelle. I suoi fan la seguono come si segue una rock star. L'opera diventa popolare. Le sue interpretazioni sulla scena e fuori sono ormai celebri. Come tutti i vezzi dei grandi fanno discutere, ma sono parte del suo fascino. Destini incrociati. Destini incrociati oggi è al seguito della voce più bella di tutti i tempi, quella di Maria Callas. Alla fine degli anni 50 è già la divina. Sposata da 10 anni con Meneghini, un industriale veronese molto più vecchio di lei, che le fa da agente, come donna non si sente completa. Ha bisogno di trovare l'amore, quello vero. Come ogni prima donna, vive la cosa con il massimo della passione. Il destino, però, decide di mettere sulla sua strada un'altra prima donna che cambierà per sempre la sua vita. Nel 1959 Maria canta un'opera sola, Medea di Cherubini, al Covent Garden di Londra. Ottiene 12 chiamate, è sempre la più grande, la più brava. Dopo il teatro si reca all'Hotel Dorchester, dove Aristotele Onassis, l'armatore greco conosciuto a casa di Wally Toscanini solo un anno prima, dà un ballo in suo onore. Alla fine della serata Meneghini, il marito, e Onassis la convincono ad accettare una crociera sul Cristina, lo yacht di Aristotele. Maria sente la pericolosità di quell'invito, ma decide di accettare lo stesso. Il 22 luglio del 1959 Maria e il marito arrivano a Monte Carlo, dove si imbarcheranno per 3 settimane sul panfilo più lussuoso del mondo. Per Onassis il Cristina è una casa, un ufficio e uno strumento promozionale, in questo caso un mezzo di conquista. Questa crociera sul mare Egeo è la prima boccata d'aria per Maria dopo tanto lavoro. Ora però si trova a un crocevia, soprattutto come donna. Come previsto, i due greci si innamorano. Non è solo un flirt estivo, ma una svolta esistenziale. Sin da settembre, al suo concerto a Bilbao, non è più Maria Meneghini Callas, ma solo la Callas. A novembre, al tribunale di Brescia, Maria arriva per la separazione da Meneghini. La stampa di tutto il mondo parla di lui come il marito abbandonato, mentre Maria è la svergognata, la donna dello scandalo. In realtà è solo una donna innamorata. L'amore è al centro della sua vita e della sua arte. Anche le eroine che interpreta sulla scena sono spesso schiave del sentimento. Senza pensarci, si trasferisce a Monte Carlo per stare vicino ad Onassis, dove frequenta anche la principessa Grace. Lei e Aristotele fanno vita pubblica. Tra crociere e balli sono sempre insieme. Una principessa è sbarcata dal Panfilo Cristina di Onassis. Un vecchio castello delle Baleari, frequentato prevalentemente dagli spiriti, è stato trasformato in albergo. E Grace e i Ranieri di Monaco giungono a Maiorca con altri ospiti del Panfilo. Arriva anche Elsa Maxwell. L'hanno invitata perché faccia paura ai fantasmi del castello. Tra gli ospiti c'è il Maerani di Baroda e suo figlio. Ne potevano mancare Maria Callas e l'armatore Onassis, anfitrioni della crociera. Sono gli anni 60. Maria è anche al Festival di Cannes. La dolce vita di Fellini prende la palma d'oro. A Cannes, au milieu du ballet des vedettes de dernière heure, Marpessa Down, Shelley Winters et Van Johnson, et Dermoud Fool, d'où émerge parfois un visage célèbre, le festival a connu sa plus belle bousculade, celle qu'a provoquée Maria Callas. Maria vive la sua nuova vita tra grandeur e feste. È una vita più frivola, più leggera di quella a cui è abituata. Adesso è la regina del jet set, la regina di un mondo incolto che non sa nulla dell'opera. Ma lei non vive che d'amore. Si stabilisce al Ritz, a Parigi. Onassis vive sul suo Panfilo e la raggiunge solo ogni tanto. Il Cristina è la sua casa. Onassis, collezionista di donne celebri, con Maria ha ottenuto il suo premio. Ma non può farne a meno. La tradisce. A Maria consigliano di fare altrettanto, ma lei non ci riesce. Sono stata criticata spesso. Mi dicono che sono molto borghese. Mi chiamerei più una brava ragazza. Non è una vergogna. Ma oggi pare che sia molto borghese essere così. Quanta forza ci vuole a sopportare tutto questo? La donna che di lì a qualche anno entrerà nella sua vita sta vivendo lo stesso strazio. È Jacqueline Kennedy. Jacqueline Kennedy. Jacqueline Lee Bouvier nasce il 28 luglio del 1929. Solo qualche settimana più tardi la borsa crolla. Il padre lavora a Wall Street. La sua famiglia ne risente pesantemente. Jackie da allora ha uno strano rapporto col denaro, ma lei è bella e piena di stile. I soldi non sono un problema. Nel 1947, infatti, appena diciottenne, viene incoronata da Igor Cassini, celebre giornalista di gossip, debuttante dell'anno. Dopo un anno passato a Parigi, dove ha modo di vedere l'Europa e di respirare un po' l'eleganza della capitale francese, torna negli Stati Uniti e comincia a lavorare come redattrice per Vogue e poi per il Washington Time Herald. Nel 1953 riceve l'incarico di fotografare persone famose e di scrivere un articolo su di loro. In una di queste interviste incontra un giovane senatore del Massachusetts di nome John Fitzgerald Kennedy. Si piacciono e si sposano il 12 settembre del 1953. The wedding of Senator John F. Kennedy recalls Newport's one-time social grandeur. Jackie incarna il sogno di tutte le ragazze dell'epoca. Oltre ad essere sposata all'uomo che sembra dare una nuova direzione al mondo, ha uno stile inconfondibile. Oleg Cassini, ex fidanzato di Grace Kelly e noto stilista dell'epoca, si occupa del suo guardaroba. Sembra una diva di Hollywood. Il suo portamento è unico. Quando John annuncia che si candiderà alle presidenziali, lei è al suo fianco. Sempre. Anche se è incinta per la seconda volta, hanno già una figlia, Caroline. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Qualche settimana dopo l'elezione del marito, nel 1960, nasce John Fitzgerald Kennedy Jr. Sono una coppia perfetta. Il mondo intero li guarda, sono belli, impegnati, sono giovani. Happy birthday to you. Happy birthday, President. Happy birthday to you. Ma anche la loro vita non è proprio così come sembra. La relazione che John intrattiene con l'attrice Marilyn Monroe è solo uno dei tanti tradimenti che costellano il loro matrimonio. Jackie però ha un ruolo, ed è quello della First Lady. Non si fa scalfire da nulla. Nel tour fatto alla Casa Bianca per la CBS, si presenta con il solito aplomb, ma con un tono di voce che sembra voler fare il verso alla bionda più famosa di Hollywood. Well, I really don't have one, because I think this house will always grow and should. It just seemed to me such a shame when we came here to find hardly anything of the past in the house. Anche Maria Callas canta quel 18 maggio del 1962 per il compleanno di Kennedy, che le regala una ciotola in argento di Tiffany con incisa la scritta a Maria Callas, che ha realizzato la profezia del presidente John Kennedy. La nostra generazione verrà ricordata per i suoi artisti. Il 22 novembre del 1963, Kennedy viene ucciso a Dallas. President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassins' bullets in downtown Dallas. They were riding in an open automobile when the shots were fired. The president, his limp body carried in the arms of his wife Jacqueline, has rushed to Parkland Hospital. La vita di Jackie cambia in un attimo, così come il destino dell'America e del mondo intero. Vedova a soli 34 anni, organizza i funerali di stato del marito, mostrandosi a milioni di persone con la dignità e la fierezza di una vera First Lady, tenendo in mano i suoi due figli. Le immagini fanno il giro del mondo. Con la sua forza, accompagna per mano una nazione intera. Tori Amos, a quella forza, dedica una canzone. Destini incrociati. È l'autunno del 1963. John Kennedy è stato assassinato e Jackie Kennedy, a soli 34 anni, è vedova. Maria Callas, che solo un anno prima aveva cantato al compleanno del presidente al Madison Square Garden, ancora non sa quanto questo evento inciderà anche nella sua vita professionale. Maria sta vivendo i suoi anni più felici con Aristotele Onassis. Nel 1964 Jacqueline Kennedy è in Grecia. In quel periodo la sorella minore, Lee Redswill, è l'amante di Aristotele Onassis. Si imbarcano tutti e tre sul Cristina per una crociera. Per la prima volta da 5 anni Maria ne è esclusa. A Parigi Maria vede le foto sui giornali. Stesso itinerario della crociera che l'ha fatta innamorare. Il destino ha già dato il via al declino della donna, mentre l'artista cerca di rimettersi in piedi. Comincia la sua collaborazione con Zeffirelli, che in un'intervista ad un giornale la descrive così. Come posso dire, la congiunzione astrale che si è verificata per creare una stella così completa e perfetta come Maria Callas non potrà ripetersi mai più. Ma la grande Callas non è che un ricordo. A 41 anni dà il suo addio all'opera. Il suo orizzonte adesso è un'isola della Grecia, Scorpios, dove si vede con Onassis. Cerca di non pensare al passato. Vuole solo sposare l'uomo che ama. Ha puntato tutto su di lui. Da 9 anni è la sua donna. L'America di Jackie, invece, offre alla vedova un orizzonte diverso. È l'America degli hippies, dello sbarco sulla luna, dei movimenti di liberazione della donna. L'anno dopo la morte del marito, Jackie intrattiene una breve relazione con Marlon Brando, ma è il fratello del marito, Bob, che la fa sperare ancora nell'amore. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. Quando nel 1968 verrà assassinato anche lui, Jackie decide di mettersi al riparo dai Kennedy e si ricorda di Onassis. Sposare un uomo ricco le dà sicurezza, forse anche per una specie di riscatto che sente di dovere al padre, fallito durante il crollo del 29. Nell'ottobre del 1968 Onassis si sposa con la donna più famosa del mondo, quella delle immagini di Dallas in mondovisione, Jacqueline Kennedy. Maria lo legge dai giornali. Ah, non preoccuparti. La donna è una creatura debole e facile alle lacrime. Maria ha perso tutto. Il suo volto da statua greca le indica però una nuova direzione, Medea, colei che si è umanizzata per amare Giasone che l'ha tradita. Un film di Pasolini. Maria si riconosce. Di nuovo la biografia si mescola all'arte. Il film non ha il successo sperato. Anche la relazione troppo urlata sulla stampa con Pasolini suona falsa. Sembra solo un tentativo per fare ingelosire Onassis e fargli capire che ha sbagliato tutto. Lei è fatta così. Il gesto drammatico è la sua forza, la tragicità la sua vocazione. Anche Jackie ha fatto tutto a modo suo. In quel secondo matrimonio cerca quella protezione, quella sicurezza, che dopo la sua storia personale è impensabile trovare con i Kennedy. Forse non è proprio amore. L'unione tra lei e Onassis è regolata da un contratto prematrimoniale in cui viene stabilito tutto, persino il numero di giorni che devono trascorrere insieme. Il matrimonio non è felice. Onassis pensa alla Callas e prova nostalgia, mentre la Callas sembra rassegnata. Voglio vederlo felice in ogni circostanza. Se lui è felice con Jackie, io sono felice per lui. Nel primo anno di matrimonio, Jackie riesce a spendere $1,500,000. Non si fa mancare nulla. Si dedica solo ai viaggi e allo shopping. Gli americani cominciano a vederla con occhi diversi. Anche Onassis non è molto felice. Non si tratta dei soldi, ma solo della nostalgia per Maria. È lei che ama, però è troppo tardi. Maria, dal canto suo, si sta facendo morire piano piano, come donna e come cantante. Riparte con una tournée insieme all'amico tenore Giuseppe Di Stefano, ma la divina non c'è più. La perfezione della sua voce va spegnendosi. E lei vorrebbe fare lo stesso, come confessa all'amico Di Stefano. Caro Pippo, ogni giorno, per fortuna, un giorno di meno. Mentre la Callas vive la sua tragedia in solitudine, quasi in esilio da chi le vuole bene, Jackie si fa immortalare nuda mentre è in vacanza su un'isola greca. Uno scandalo per l'epoca. Ne parlano tutti i giornali scandalistici. Pare che Andy Warhol tenesse una copia di quegli scatti in un suo diario. Due donne agli antipodi, accomunate dal destino, che le mette sulla strada dello stesso uomo. Vorrei trasmettere agli altri quello che so, soprattutto ai giovani. Sono pronta, ma loro non vogliono. I miei colleghi potrebbero approfittarne, ma loro si vergognano di andare dalla Callas a chiedere consigli. La verità è che non mi vogliono. Sono completamente inutile, completamente inutile. È triste dirlo, ma è così. Questa è un'ultima intervista fatta alla radio. La disperazione per la sua vita è ormai tangibile. E Onassis? Il 23 gennaio 1973 un immenso dolore lo colpisce. Alexander, l'unico figlio maschio, muore in seguito alle ferite riportate in un incidente aereo. Fu lui a dare al giovane John, fratellastro acquisito nelle seconde nozze del padre, le prime lezioni di volo e, per ironia del destino, entrambi sono morti in seguito a incidenti aerei. A soli 69 anni, Onassis è un uomo vecchio, triste, malandato. Gli diagnosticano un male incurabile. Si trasferisce a Parigi, la città di Maria. È là che vuole morire. All'ospedale porta con sé solo il plaid rosso che Maria gli ha regalato. Muore il 15 marzo del 1975 e mentre Jackie litiga con la figlia per l'eredità, Maria non ha più motivi per vivere, come ricorda la sua amica di sempre, Giovanna Lomazzi. Non aveva più motivi per stare al mondo, avendo avuto dei motivi eccelsi, perché voglio dire la sua carriera, la sua vita è sempre stata un turbinio di ammiratori, di incontri, di omaggi, di denari, di lusso, tutto ha avuto. Piano piano tutto questo non l'ha avuto più. Lei si è ridotta a essere una donna sola, una donna a dover vivere in casa con due persone di servizio che erano le uniche persone che le erano rimaste vicine. Non c'è più futuro, non c'è più presente, ci sono solo gli echi del passato. Maria non risponde nemmeno al telefono, vuole rimanere sola, si riempie di pasticche, sonniferi, eccitanti. Muore nella sua stanza da bagno di un'embolia polmonare. È il 16 settembre del 1977.